71. Tagliatelle all'uso di Romagna. Conti corti e tagliatelle lunghe, dicono i bolognesi, e dicono bene, perché i conti lunghi spaventano i poveri mariti e le tagliatelle corte attestano l'imperizia di chi le fece. E servite in tal modo, sembrano un avanzo di cucina. Perciò non approvo l'uso invalso per uniformarsi al gusto degli stranieri di triturare minutissimi nel brodo i cappellini, i taglierini e minestre consimili, le quali per essere speciali all'Italia debbano osservare il carattere della nazione. Fate la sfoglia e tagliatela come quella del numero 69, cocetele poco, scolatele bene dall'acqua e mettetele in una cazzaruola sopra il fuoco per un momento, onde far loro prendere il condimento, che è quello degli spaghetti alla rustica, numero 104, più un pezzo di burro proporzionato alla quantità della minestra. Mescolate ad agino e servitele. A parer mio questa è una minestra molto gustosa, ma per ben digerirla ci vuole un'aria come quella di Romagna. Mi ricordo che viaggiai una volta con certi fiorentini, un vecchietto sdentato, un uomo di mezz'età e un giovine avvocato, che andavano a prender possesso di un'eredità a Modigliana. Smontammo a una locanda che si può immaginare qual fosse in quel luogo 40 e più anni or sono. L'oste non ci dava per minestra che tagliatelle e per principio della coppa di maiale, la quale, benché dura assai ed ingrata, bisognava vedere come il vecchietto si affaticava per roderla. Era però tale l'appetito di lui e degli altri che quella e tutto il resto pareva molto buono, anzi eccellente, e li sentì più volte esclamare: «Oh, se potessimo portarci con noi di quest'aria a Firenze!» Poiché siamo in questi paraggi, permettetemi vi racconti che dimorava a Firenze, al tempo che correvano i Francesconi, un conte di Romagna, il quale, facendo il paio col marchese di Forlimpopoli del Goldoni, aveva molta boria, pochi quattrini e uno stomaco a prova di bomba. Erano tempi in cui si viveva con poco a Firenze, che fra le città capitali andava famosa per buon mercato. C'erano parecchie trattorie con l'ordinario di minestra, tre piatti a scelta, frutta o dolce, pane e vino, per una lira toscana, 84 centesimi. Quelle porzioni, benché piccole, pure sfamavano chiunque non fosse allupato, e frequentavano tali trattorie anche i signori, ma il conte in queste non si degnava. Che industria credete che gli avesse trovato per figurare e spender poco? Andava un giorno sì e un giorno no alla tavola rotonda di uno dei principali alberghi, ove con mezzo francescone, lire 2,80, il trattamento era lautissimo, e là, tirando giù a strame, si impinzava lo stomaco per due giorni, facendo dieta in casa il secondo con pane, cacio ed affettato, siavi di esempio e di ricetta.